Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Il mondo della comunicazione al giorno d'oggi tende a etichettare tutto, anche e soprattutto nella musica: cantante rock, cantante jazz, cantante pop, e soprattutto se si tratta di personaggi molto famosi che hanno lasciato un segno nelle nostre vite, questo può suonare assolutamente restrittivo. La protagonista di oggi è una delle cantanti più famose del mondo e si potrebbe dire che è la cantante folk più grande di tutti i tempi, ma comunque le faremo un torto, perché lei è molto, ma molto di più. Lei è stata ed è anche oggi, che ha superato i 75 anni, il simbolo della lotta pacifista, la paladina dei deboli, la cittadina americana più anti-americana che ci sia. Ha combattuto lotte durissime che l'hanno vista a fianco di personaggi come Martin Luther King, ha rischiato la vita sotto i bombardamenti in Vietnam durante la guerra, è finita in prigione per le sue posizioni anti-americane e anti-governative. Insomma, stiamo parlando di una donna che non si può inquadrare dentro a una definizione. Lei ha dichiarato più volte che preferisce essere considerata un'attivista che canta piuttosto che una cantante pacifista. Credo che in molti penseranno quello che sto pensando io, cioè che non si può dare di lei una definizione sola, meglio dire il suo nome, un nome che parla per lei: Joan Baez. Means farewell, Angelina. The sky is trembling and I must leave. Come saprete, io non mi sforzo di assecondare le pronunce americane e quindi la sentirete chiamare Joan Baez per tutta la puntata, perché nella mia testa lei è chiamata così. E molti giovani anche oggi, insomma, a patto che non siano proprio bimbi minchia, la conoscono, però per chi ha dai 40-50 anni in su, lei è assolutamente un'icona, qualcuno con cui siamo cresciuti, ha dato voce alle coscienze di più di una generazione. Le sue canzoni sono parte della colonna sonora delle nostre vite, sono il simbolo di un'epoca che era carica di speranze, di desiderio di rivalsa contro un sistema, in particolare americano, contro il quale tutta una generazione ha lottato, e lei in testa. E la sua lotta era universale, lo ha dimostrato negli anni, perché ha promosso battaglie per i diritti civili, contro la tortura, la pena di morte, il militarismo, contro ovviamente la guerra, una posizione spesso scomoda, ma è una posizione che l'ha sempre vista proiettata nel futuro. Non ho grandi aspettative nell'immediato. Non mi aspetto che il mio lavoro avrà dei risultati in tempi brevi. Non penso di vedere nella mia vita quelle cose che veramente vorrei che accadessero. La fine del militarismo, degli stati e delle nazioni. La spinta al pacifismo, all'impegno sociale e una predisposizione altrettanto forte verso la musica hanno caratterizzato tutta la vita di Joan Baez. Nasce il 9 gennaio 1941 a Staten Island, New York. La famiglia di origine scozzese per parte di madre, messicana per parte di padre, e il padre, Alberto Vinicio Baez, ha un'influenza decisiva nella formazione della figlia. Intanto è un fisico, ha inventato assieme a altri il microscopio a raggi X, autore di testi scolastici di fisica, ma è anche figlio di un pastore metodista che gli ha trasmesso i suoi ideali pacifisti. Ecco perché probabilmente Alberto Baez rifiuta un incarico ritenuto di grandissimo prestigio per un fisico, cioè rifiuta di lavorare al progetto Manhattan per la costruzione della bomba atomica, quello di cui, diciamo, il direttore tecnico fu Enrico Fermi, progetto che portò alla costruzione delle due bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki, due delle più grandi vergogne del genere umano. Mio padre e mia madre erano entrambi pacifisti, in maniere diverse. Mia madre in modo molto naturale, non attraverso letture o studi, era proprio così. Mio padre invece, quando avevo all'incirca 4-5 anni, iniziò ad andare alle riunioni dei quaccheri. Era un fisico molto bravo e gli venne richiesto più volte di lavorare per la difesa e per altri enti governativi. Ma lui si rese conto che non poteva farlo e fece l'insegnante tutta la vita, cosa che amava molto. e poi collaborò con l'UNESCO. Il fatto che fosse un quacchero contro ogni violenza lo capii solo molto tempo dopo, quando mi resi conto di non avere alcun senso nazionalistico. Io sono patriottica, sono molto appassionata, ma per la gente non posso scegliere una parte e conquistare. E così il lavoro del padre, soprattutto la sua collaborazione con l'UNESCO, porta la famiglia Baez a girare parecchio, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Svizzera, Francia, Italia e perfino in Iraq, un'esperienza che la piccola Joan, che a quei tempi ha solo 10 anni, non dimenticherà mai più. A Baghdad c'era gente che soffriva e moriva per le strade e io non potevo sopportarlo. Avevo visto picchiare un vecchio ubriaco, probabilmente un mendicante, all'aeroporto. La polizia lo cacciava via. Non potevo sopportarlo. Poi avevo visto picchiare degli animali fino ad ucciderli e dopo non ero riuscita né a dormire né a mangiare. E le sofferenze per Baghdad stavano solo cominciando. Anni dopo lei scriverà che quel popolo che soffriva era diventato parte di lei, che aveva visto cose che la maggior parte degli americani non potevano neanche immaginare esistessero. Era partita da lì la sua presa di coscienza in mezzo a quegli orrori. Il falco e il gabbiano. L'infanzia di Joan Baez non è un'infanzia felice, anche se la famiglia è molto unita ed è una famiglia colta e benestante. Ha 2 sorelle a cui è molto legata, Pauline e Mimi, che diventerà anche lei una bravissima cantante. Ma sicuramente la sofferenza e il senso di inadeguatezza fanno parte del carattere molto sensibile di Joan. E poi essere dei messicani nell'America degli anni 50 non aiuta ad essere delle persone felici. Ero magra e scura di pelle e dove vivevamo, a New York, pensavano che fossimo neri perché non avevano mai visto un nero o un messicano. E poi quando ci trasferimmo in California fu anche peggio perché lì era male essere messicani e noi eravamo messicani. E lei soffre moltissimo, lo confesserà anche nelle sue biografie anni dopo. È piena di fobia, paura di tutto, è solitaria, fa fatica a farsi degli amici senza rendersi conto di essere anche molto carina, un bel viso, lunghi capelli neri, una bella figura, ma soprattutto ha una voce angelica, una voce che può rappresentare per lei il riscatto della sua condizione di emarginata in quanto messicana. Lo scopre quando un amico del padre le presta un ukulele, la piccola chitarra hawaiana, il nome significa pulce saltellante perché la si suona in maniera molto veloce, e lei si esercita con questo strumento, è molto portata, inizia a suonare, si accompagna nel canto e le piacciono soprattutto le canzoni di Elvis Presley. Un professore amico di mio padre aveva un ukulele e iniziai a suonarlo. Credo che la motivazione che mi spinse verso la musica era che volevo avere degli amici. Divenni una vera intrattenitrice nel cortile della scuola. Portavo l'ukulele e cantavo Elvis Presley. Amavo la musica, ma non avevo il vibrato e la mia voce non era matura. Poi ho sviluppato il vibrato. Il Time Magazine ha scritto una volta che passavo ore davanti allo specchio ad esercitarmi col vibrato, ed è vero, avevo un grande desiderio di comunicare. E Joan canta magnificamente, suona senza aver studiato, insomma è un talento naturale. E poi ha questa particolarità che oggi può suonare un po' antica, quella di esercitarsi davanti allo specchio per perfezionare il suo vibrato. È ottenuto con il movimento oscillatorio del diaframma, oscillazione molto veloce, insomma, ripeto, oggi magari possiamo sorridere di fronte a quel vibrato, però allora era una caratteristica che crea in lei qualcosa di magico. E di pari passo con la sua crescita musicale si sviluppa però il suo senso di coscienza civile. Dopo aver visto una Baghdad già devastata e non sapeva cosa sarebbe successo dopo, insomma, viene spinta verso un attivismo destinato a grandi cose. A 16 15 anni, nel 57 lei conquista le prime pagine dei giornali per un atto di disobbedienza civile degno della sua futura carriera di pacifista. Il fattaccio avviene alla Palo Alto School durante un'esercitazione. Ascoltate il suo racconto. Erano le 2 del pomeriggio, suonò una campanella. A quel punto dovevi precipitarti a casa o chiamare i tuoi genitori che venissero a prenderti, e ti dovevi nascondere in cantina perché questo sarebbe stato, secondo loro, il comportamento più sicuro in caso di attacco da parte dei russi. Io mi ero documentata sui manuali di fisica di mio padre e avevo calcolato quanto ci avrebbero messo i missili russi ad arrivare da Mosca alla nostra scuola a Palo Alto. Avevo capito che l'esercitazione era una sciocchezza, non aveva alcun senso. Poi in più, dopo, i ragazzi si riunivano per quella che chiamavano la festa della bomba. Ridicolo. Allora io per protesta rimasi a scuola. Sapevo che il mio comportamento avrebbe causato confusione, controversie, ma fu incredibile. Il giorno dopo ero in prima pagina sui giornali. Presto iniziarono ad arrivare lettere da genitori dei miei compagni che denunciavano una comunista infiltrata. Fu il lancio della mia carriera politica. Io quando sento queste cose ancora non mi capacito del fatto che questi qui comandino il mondo, questi qui sono gli americani. Ma siamo al 1959, sempre per il lavoro del padre, la famiglia Baez si trasferisce a Boston, che è la culla della musica folk in quegli anni, e lei si innamora di questa musica, inizia a cantare nei club, viene notata da Bob Gibson, un cantante folk dell'epoca, e la invita a esibirsi con lui al Newport Folk Festival. Lei ha 18 anni, canta in una maniera spettacolare, con una voce straordinaria, con una incredibile presenza scenica, a dispetto delle sue mille paure e della sua patologica timidezza. E questo è il documento ufficiale della sua esibizione. E dopo questa esibizione si inizia a parlare della Madonna scalza, perché ha i capelli molto lunghi e lisci, ma soprattutto perché ha cantato senza scarpe. Il suo carisma però è tale che la Vanguard Record, la famosa casa discografica statunitense dei fratelli Solomon, le offre un contratto, e l'anno dopo, nel 60, esce il suo primo album e il successo è discreto. Il disco si chiama Joan Baez, contiene una raccolta di ballate folk e blues, e nel 61 esce Joan Baez volume 2, una raccolta di brani di autori anonimi del patrimonio musicale tradizionale, e qui invece il successo è decisamente superiore. Disco d'oro grazie soprattutto all'interpretazione molto personale di Joan, di una romanza francese del 1785 che si dice fosse la canzone preferita di Maria Antonietta, si dice addirittura che la regina la cantasse in prigione prima di essere ghigliottinata. Sur toute la vie. L'avete riconosciuta, mi auguro per voi, la canzone Plaisir d'amour, tradotta in inglese diventerà Can't Help Falling in Love with You, canzone cantata da molti, Elvis Presley, l'ho cantata e incisa anch'io, ma questo è ininfluente ai termini del racconto. Questo secondo album dà a Joan Baez una grande notorietà, la rende una sorta di bandiera nazionale a dispetto di quello che poi sarà invece il suo acceso anti-americanismo. E proprio grazie alla musica folk, al Jerdis Folk City, l'evento di musica folk più importante di New York, nel 61 Joan Baez incontra qualcuno destinato a rappresentare per lei moltissimo. È un colpo d'ala reciproco, perché l'incontro è tra la nostra protagonista Joan Baez e un altrettanto giovane Bob Dylan. Il falco e il gabbiano. La nostra puntata di oggi è dedicata a Joan Baez, una delle più grandi interpreti della storia della musica, è considerata forse riduttivamente la folk singer più famosa mai esistita, però in realtà è una delle più attive pacifiste della scena mondiale, un'icona internazionale da più di 50 anni, un mito vivente che, pur avendo passato i 75 anni di età, non accenna a perdere né la voce limpida e cristallina, né tantomeno il suo spirito indipendente, la sua continua ricerca per la libertà, per la pace. Le battaglie per i diritti sono state battaglie fatte accanto a Martin Luther King, oppure contro la guerra in Vietnam, dove ha rischiato la vita. E sono queste battaglie delle pietre miliari che segnano la nostra storia e ne fanno ancora oggi il simbolo di un'America diversa, non omologata, anticonformista e coraggiosa. E abbiamo accennato a quel incontro che cambierà la vita di Joan Baez e di Bob Dylan e anche della scena musicale intera. E sì, perché i due si sono incontrati al Jerdis Folk City, l'evento più importante della musica folk di New York. Hanno 20 anni entrambi. Lei è già famosa, ha già preso il disco d'oro col secondo album. Lui è ancora sconosciuto e lei lo ricorda così. Risvegliò il mio istinto materno perché era incasinato, trasandato. Era un'esplosione di talento in bozzolo. Era molto strano, mistico. E tutto questo pur essendo molto giovane. E lui non è ancora il Bob Dylan che verrà amato da milioni di fan, è considerato forse il miglior cantautore, almeno nel senso stretto di cantautore, è il migliore di tutti i tempi, uno scrittore, il pacifista, premio Oscar, premio Pulitzer, insomma il Bob Dylan che ha fatto il giro del mondo cambiandolo. Nel 61 invece è un ragazzo che nessuno conosce, suona la chitarra, l'armonica, attira l'attenzione del pubblico, alcuni giornalisti ne scrivono bene, ma la persona che ne rimane più affascinata è proprio lei, Joan Baez. Si tratta di un colpo di fulmine, intanto artistico. Ascoltate questo spezzone di un'intervista doppia a lui e a lei realizzata molti anni dopo. Credo che Dylan fosse preso dalla mia musica come io lo ero dalla sua. Ero pazza di lui. Eravamo veramente qualcosa insieme e ci divertivamo molto. Cantavo con lei e le nostre voci stavano bene insieme. Potevamo cantare qualsiasi cosa e aveva un senso. Iniziamo a cantare insieme qua e là. Lei mi chiese se volevo fare dei concerti insieme. Andò così. Beh, sentite la differenza caratteriale. Lei che dice ero pazza di lui e lui che dice facciamo dei concerti insieme. Andò così. In realtà però i due si innamorano veramente e iniziano questa relazione dove amore, musica, attivismo si intersecano e i due cominciano a collaborare in diversi concerti, ma soprattutto diventano i portavoce di un'America diversa, antimilitarista, quella che si schiera contro le guerre, contro le discriminazioni razziali, contro il sopruso. È storica la loro partecipazione alla Marcia su Washington che si tiene il 28 agosto del 63, uno dei più grandi raduni di tutti i tempi a sostegno dei diritti civili degli afroamericani. È quella dove Martin Luther King fa il suo storico discorso I Have a Dream e sostiene l'armonia razziale. In quell'occasione Joan Baez canta un brano derivato da una canzone gospel tradizionale rivisto da un grande come Pete Seeger. La canzone, dopo la sua interpretazione alla Marcia di Washington, diventa per sempre l'inno del pacifismo mondiale. E stiamo parlando ovviamente di We Shall Overcome. È un momento in cui l'America che non ci sta si raduna, si compatta, stanno vicini tra loro e per esempio Joan Baez ha un ricordo ben nitido di Martin Luther King. Solo le persone che non sono veramente dentro le cose sono coraggiose. Lui era terrorizzato, aveva paura dei gas lacrimogeni, aveva paura di essere picchiato, ma andava avanti lo stesso, ha fatto tutto quello che ha fatto lo stesso. Nel 65, dopo 4 anni, finisce la relazione tra Joan Baez e Bob Dylan. Lei molti anni dopo dirà: quando eravamo noi due non eravamo due persone, eravamo almeno in tre, eravamo troppi. E la verità è che due personalità così grandi probabilmente non potevano stare assieme. È abbastanza significativo il fatto che 10 anni dopo John scriverà sulla sua relazione con Dylan una canzone che da molti critici è considerata la sua canzone più bella, Diamonds and Rust. Peraltro canzone che dà il titolo all'album omonimo e l'album che sarà il più venduto di sempre di John. L'attività pacifista di John Baez continua nel 67 durante un picchettaggio di protesta contro la leva obbligatoria. Viene arrestata insieme alla madre e alla sorella Mimi. Sempre più spesso viene accusata di anti-americanismo. Si innamora e sposa David Harris, che è un esponente del movimento pacifista conosciuto in carcere, noto alla polizia, uno che sarà arrestato più volte. Nel 69, incinta al sesto mese del figlio Gabriel, Joan Baez si esibisce allo storico festival di Woodstock. This next song is one we learned off a tape of a group called the Styx River Ferry, and it's kind of a theme song for resistance, but if you think about it, it's probably a good theme song for anybody. It's called I Live One Day at a Time, and I Dream One Dream at a Time. And I live one day at a time, I dream one dream at a time. Questa esibizione straordinaria ha una risonanza planetaria nel mondo, una risonanza sia musicale che politica, forse soprattutto politica. Lei diventa l'usignolo di Woodstock. Nonostante l'impegno politico comune, però la vita privata non va altrettanto bene. Nasce Gabriel, ma Joan e il marito divorzieranno nel 73 e lei dirà: sono fatta per stare da sola, non si risposerà mai più, anche se pensate che negli anni tra il 70 e l'80 avrà una relazione con Steve Jobs, che avrebbe voluto sposarla, ma lei rifiuta, quindi evidentemente era piuttosto disinteressata al denaro, perché insomma se Steve Jobs ti chiede in sposa un investimento sul tuo futuro, forse potevi farlo. Ma torniamo al 72, precisamente al Natale del 72, quando assieme a una delegazione pacifista Joan Baez si reca a Hanoi in Vietnam, proprio nel bel mezzo della guerra. E proprio nel bel mezzo di quello che passerà alla storia come il bombardamento di Natale ordinato da Richard Nixon, una delle incursioni più atroci della atroce guerra del Vietnam, 11 giorni di bombardamento a tappeto su obiettivi militari e soprattutto, come buona abitudine Yankee, civili vietnamiti e sulla città di Hanoi. Probably the most dangerous situation was in Hanoi 1972. Probabilmente la situazione più pericolosa della mia vita è stata ad Hanoi nel 1972. Ero lì nel periodo di Natale con un'associazione pacifista, con altre 3 persone. Portammo la posta ai soldati americani e volevamo conoscere i vietnamiti di persona. Ero nella hall dell'albergo, avevo con me la chitarra e stavo cantando il Padre Nostro quando è iniziato il bombardamento. I bombardieri B-52 americani bombardarono a tappeto. Nessuno era preparato, nemmeno i vietnamiti. Fu terrificante. That was terrifying. Insomma, John Baez è l'immagine stessa della protesta pacifista. Ogni sua canzone è un manifesto in qualche modo. Per esempio, quando irrompe sul mercato il brano Inno, che fa parte della colonna sonora del film Sacco e Vanzetti, colonna sonora scritta da Ennio Morricone. Sacco e Vanzetti, che racconta la atroce fine dei 2 anarchici italiani ammazzati in America per crimini mai commessi. La canzone è meravigliosa, Here's to You. E fin dai primi anni 70 lei collabora con Amnesty International, poi nell'81 va in Cile, in Brasile, in Argentina, tiene per anni concerti a sostegno delle cause civili più diverse, va in Cecoslovacchia, in Bosnia e Erzegovina nel 93, organizza concerti perfino in Israele e nella striscia di Gaza. È la prima artista a entrare a suonare nell'ex penitenziario di Alcatraz. Insomma, è ovunque e la sua presenza, la sua influenza e le sue canzoni vengono sempre messe al servizio della libertà e della pace. In tutti i suoi viaggi e i suoi concerti ha sempre con sé la sua amica più fedele, la chitarra. La gente dice che la musica può cambiare il mondo, ma la chitarra di tutti gli strumenti è quello che ho suonato ovunque. In ogni dittatura c'è una chitarra che suona la libertà, il Blowing in the Wind locale, scritto da qualcuno di lì. La chitarra in questi paesi è stata un oggetto messo a tacere, ma ha servito benissimo il suo scopo di unire le persone. Ultimamente John Baez forse ha dato una piccola svolta alla sua carriera, perché per anni il suo lavoro musicale ha viaggiato veramente di pari passo, confondendosi con quello politico. Oggi sembra che la grande interprete abbia un po' deposto le armi del pacifismo attivo, anche se le tematiche restano sempre le stesse, e oggi dice così: ora sono dentro a una scappatoia musicale e ne sono così felice. Mi sono domandata cosa posso fare quando non rispondo al telefono e dico sì, volo in Bosnia, vengo ad Hanoi. Cosa c'è per me? Mi sono guardata dentro e ho rotto il mio schema. Ora posso finalmente occuparmi del grande dono che ho ricevuto, la mia voce, della quale posso parlare liberamente perché non ne ho alcun merito. Tutto quello che faccio è solo mantenerla e consegnarla. Ma comunque non abbassa certo la guardia. Ad esempio prende una posizione molto dura nei confronti di George W. Bush contro l'invasione americana dell'Iraq del 2003, e durante i due mandati di Bush apre tutti i suoi concerti chiedendo scusa per quello che il suo governo fa al mondo, e almeno lei lo fa. E il suo ultimo album è del 2008, si intitola Day After Tomorrow, dal titolo della struggente canzone che contiene, che è stata scritta da Tom Waits con la moglie Kathleen Brennan. È un grandissimo successo, ovviamente. I got your letter today, and I miss you all so much here, and I can't wait to see you all. I'd like you to remember me as slightly silly. Vorrei che mi ricordaste come una persona leggermente sciocca. È importante perché la gente pensa che io sia così seria. Non lo sono mai stata e non lo sono di certo oggi. Vorrei che si pensasse che io prendo seriamente solo alcune cose. Le cose serie le prendo seriamente. E questa è una frase molto importante che racchiude il modo di vivere e la filosofia di una grande artista come Joan Baez, un artista che si scusa di essere americana e che in qualche modo dedica la sua vita e la sua arte a rimediare ai torti che l'America infligge al mondo da decenni, e soprattutto che dedica la sua vita a battaglie molto importanti, getta il seme per un cambio di mentalità che in qualche modo dà ancora oggi i suoi frutti, anche se magari in ordine sparso. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, hanno fatto cose che hanno lasciato un segno. Storie di chi ci è riuscito, di chi ha tentato, di chi ha avuto cadute e risalite, perché ognuno nella sua vita può cadere, ma può anche risalire e può anche volare in alto per rimediare agli errori altrui, come ha fatto la nostra protagonista, Joan Baez. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco@radio24.it oppure sul sito radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei social Facebook, Twitter o nei social della nostra trasmissione. Insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Gracias a la vida.